questa sigla che ben conosciamo sarà in versione estesa nei contenuti domani dalle 11.30 alle 12.30. Oggi anticipa con un last minute che ci porta a Ferrara al Jazz Club il Torrione, perché per due settimane vi sarà un'anticipazione di weekend che partirà dal giovedì. Questa sera, giovedì 10 ottobre, al Jazz Club il Torrione, Peter Erskine Quartet con un featuring Bob Minzer. Allora, Bob Minzer è stato tra i cofondatori degli Yellow Jackets. Yellow Jackets, una formazione che faceva della fusion anni 70-80, ma fino a un periodo che arriva ai giorni nostri, con una qualità musicale, una ricerca di intersezione che è stata definita anche jazz rock, ha dato un valore decisamente aggiunto all'improvvisazione, al modern jazz, alla struttura e alla scrittura musicale, oltre che al buon gusto. Peter Erskine, batterista, già con i Weather Report, che non hanno bisogno di presentazione, completa il quartetto Alan Pasqua al pianoforte e Derek Halls al contrabbasso. Quindi dalle 21.30 questo il protagonista che già abbiamo conosciuto, batterista, grande talento, non un veterano ma possiamo dire una sicurezza, e non giovanissimo certamente, ma una sicurezza per quanto riguarda la struttura musicale, la capacità di esperienza. E ancora, perché non l'ho voluto definire veterano, perché dà un po' l'idea anche di qualcuno in là con l'esperienza, no, Peter Erskine è molto presente, è molto attivo sia in concerti che in produzioni discografiche. In quartetto questa sera al Torrione, il featuring al sax tenore di Bob Minzer. A tale proposito ho selezionato un brano live appunto per quanto riguarda questa formazione e anticiparne le sonorità di questa sera al Jazz Club di Ferrara. Thank you. passa alla batteria che state ascoltando sotto l'organo Hammond, alla batteria Peter Erskine. Questa sera sarà al quartetto con la formazione che vede l'ospite col featuring di Bob Minzer al sax tenore, cofondatore degli Yellow Jacket. Yellow Jacket, Bob Minzer, Peter Erskine ha suonato con Weather Report. Insomma, direi che abbiamo un incontro importante tra il jazz rock e la fusion riportato in modern jazz, come state ascoltando. Completa la formazione Alan Pasqua al pianoforte ed Eric Halls al contrabbasso per iniziare l'esteso weekend a Ferrara in un last minute jazz live. Eccolo qua, Bob Minzer. Aspettando la conferenza di presentazione per l'edizione 2024 di Bologna Jazz Festival che porteremo domani in presentazione. Come ben sapete, la collaborazione Bologna-Ferrara è molto presente ed è importantissima per entrambe le sedi concertistiche, ma soprattutto per la grande qualità musicale. Avremo il direttore artistico Francesco Bettini, avremo anche il presidente Federico Mutti, insomma ben orgogliosi di essere a fianco di queste manifestazioni in jazz e non solo. Avete un assaggio dell'insieme Erskine Mintler con il brano che vi sto portando, a sua volta ripreso da un live. Ascoltiamo ancora qualche nota, dopodiché avremo un last minute con altri suoni.